Lo ricordiamo ancora una volta i sionisti, noi cosa vogliamo? Vogliamo una Palestina libera! Da Haifa al Naqab, da Gaza a Gerusalemme! La compagna palestinese Campana di Napoli. Con 7 pullman dalla Campania siamo stati fermati per 3 ore, isolandoci, strappandoci i cartelloni, senza alcun tipo di tutela per chi sarebbe potuto stare male e sarebbe dovuto andare in barca. Siamo qui per dirvi che il vostro tentativo di reprimerci, di zittirci, non ci fa tirare indietro, che noi in piazza continueremo a scendere, che noi continueremo a denunciare l'occupazione, continueremo a manifestare per il nostro popolo, perché per oltre 75 anni abbiamo vissuto in un sistema di apartheid che ci vuole cancellare, mandare via dalle nostre case, dalle nostre terre, che ci vuole annullare. Questa notte il popolo di Gaza ha vissuto in modo totalizzante una condizione di isolamento e allontanamento dal resto del mondo. Non avevamo più contatti con Gaza. Vogliamo che si parli di questo. Vogliamo che si parli di come Gaza, una prigione a cielo aperto, un territorio recintato da un muro di 730 chilometri, costruito più di 20 anni fa dall'occupazione israeliana, un vero e proprio campo di concentramento, sia sotto assedio da 17 anni. Al giornale chiedo: perché non parlate della forza di repressione, oppressione, occupazione coloniale che Israele da oltre 75 anni quotidianamente esercita sul nostro popolo, arrestando, torturando, assassinando giovani e bambini? Ai giornali chiedo: ogni giorno ci deumanizzate rendendoci corpi e numeri. Noi non siamo numeri. Ogni palestinese ha una storia, una vita, un passato, un presente, un futuro. Perché per voi le nostre vite valgono di meno? Ai governi occidentali chiedo: definite democrazia un governo che commette genocidio, che uccide bambini, che occupa le case, che assedia, che bombarda, che viola da quasi un secolo il diritto internazionale. Che significato ha per voi democrazia? Chiedetevelo! A chi criminalizza e condanna la lotta palestinese chiedo: chi siete voi che stasera tornerete a casa, avrete un piatto caldo, un tetto sulla testa, per delegittimare la lotta di chi vive nella totale precarietà, senza acqua, luce, né gas, e nella paura costante di non tornare a casa, nella paura costante di morire? Ad ogni complice sionista, a chi ha votato contro, a chi si è astenuto dalla risoluzione di tregua umanitaria proposta alle Nazioni Unite, come il governo italiano, dico: avete le mani sporche di sangue, siete complici della disumanità manifestata dai massacri, gli assassini quotidiani e secolari. Siete, per i vostri sporchi giochi di potere, dei criminali. Che ne dite di farci fare qualche foto dai giornalisti e alzare tutti i pugni! Tutti i pugni in alto! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Israele criminale! Palestina immortale! Immortale. Palestina immortale. Israele via via. Israele via via. Israele via via. Israele via via. Ma vi fanno male le braccia? Dove sono i pugni?